Ora, oggi inizieremo il quarto capitolo del trattato di Berachot nella Mishnah e nella Gemara. Se finora il trattato di Berachot era dedicato a tutto ciò che riguarda la mitzvah della Keriat Shema, la lettura dello Shema, questo capitolo invece sarà dedicato soprattutto alla tefilah della Amidah, che si chiama anche Shemone Esre, la tefilah delle 18 benedizioni, che era il numero originale di Berachot che era stato istituito nella Amidah dei giorni feriali. Come piccola introduzione a questo capitolo, la domanda di base è riguardante l'Amidah: qual è la fonte della tefilah dell'Amidah? È una cosa che è legata allo Shema, quindi alla lettura mattutina e serale, a ciò che segna il cambiamento tra notte e mattina e poi tra giorno e notte la sera, oppure è più legata l'Amidah alle funzioni che si facevano nel Beit HaMikdash, che se prende la tefilah, l'Amidah prende il posto, sostituisce le korbanot, come i maestri ci insegnano. E ci sono diversi aspetti quindi nell'Amidah. Troveremo quindi diverse fonti. Da una parte l'Amidah trova spunto, come vedremo nella Gemara, già nelle funzioni fatte dai nostri avi, dai patriarchi. Dall'altra parte si lega alle funzioni nel Beit HaMikdash. Quindi ci sono diversi aspetti che servono anche come basi a diversi spunti halachici che regoleranno l'Amidah e la sua modalità. Oltre a questo abbiamo l'obbligo di tefilà, l'obbligo di pregare, ma la maggior parte dei poskim sono dell'opinione che l'obbligo di pregare ogni giorno è un obbligo miderabbanan, un obbligo dei chachamim, anche se c'è un obbligo generale di tefilà, di pregare, di chiedere le nostre esigenze ad Hashem nella Torah stessa. Ma secondo la maggior parte dei poskim è considerato il fatto di farlo tutti i giorni e in questa maniera una cosa drabbanan. Anche se, secondo il Rambam, secondo Maimonide, è considerato questo già una mitzvah della Torah, che ogni giorno bisogna fare tefilah, come è scritto: Va'avadetem et Hashem Elokechem, e servirete il Signore vostro Dio. I maestri insegnano qual è il servizio. Come si serve? Bechol levavechem, con il cuore. Qual è il servizio del cuore? La tefilah. Ok? Quindi secondo il Rambam questa è una mitzvah quotidiana, positiva della Torah. Ma è sicuro secondo tutti che il nusach, cioè il testo, il rito stesso, non è dalla Torah. Questo è sicuramente stato istituito dai Chachamim, le parole che noi recitiamo nella tefilah. Inoltre, i tempi e gli orari delle tefilot sono anche questi istituiti dai Chachamim e non sono indicati precisamente nella Torah. E quindi tutto questo va definito, va chiarito, il legame con i tempi specifici si lega agli orari delle korbanot, ai quali corrisponderanno, come vedremo, come ho detto anche prima, le tefilot, questo lo vedremo anche per ciò che riguarda la tefilah in teoria in più che Arvit, perché abbiamo la tefilah della mattina, Shacharit, che corrisponde al Korban Tamid della mattina, il sacrificio quotidiano mattutino, il Mincha che corrisponde al Korban Tamid Shel Ben Arbaim, cioè il sacrificio quotidiano pomeridiano, e Arvit a che cosa corrisponde? Vedremo anche questo. Ma in generale, cosa significa la tefilah? Possiamo guardare le parole del Rambam, del Maimonide, che lui scrive che la mitzvah, l'obbligo è di pregare ogni giorno e recitare le lodi di HaKadosh Baruch Hu e poi chiedere le proprie esigenze, Shoel Tzerachav, chiedere le proprie esigenze, con una richiesta e una supplica e poi di nuovo lodare e ringraziare a Kadosh Baruch Hu per il bene che gli ha dato, ognuno secondo le proprie possibilità. Cioè, stiamo parlando dell'Amidah. Stiamo parlando dell'Amidah, ma cosa vuol dire ognuno secondo le proprie possibilità? Vuol dire che in origine non c'era un linguaggio e un rito fisso per l'Amidah, anzi, bisognava ognuno formulare, secondo questi criteri indicativi che abbiamo detto, una propria tefilà personale. Cosa è successo? In quell'epoca originale, ognuno faceva la propria tefilà originale. Chi era più abituato o aveva studiato più come formularle le faceva più elaborate, chi aveva meno possibilità in questo senso le faceva meno elaborate, ma ognuno le faceva a modo suo. È successo poi, cioè è rimasto così dai tempi di Mosè, scrive Rambam, dai tempi di Mosè Rabbeinu, fino all'epoca di Ezra, famoso Ezra Sofer, lo scriba Ezra. Quando gli ebrei sono stati esiliati da Nebuchadnezzar, nell'esilio babilonese. Quindi scusa Rabbi, scusa sì. Ti interrompo. Quindi ci sono sempre state queste preghiere anche quando c'era il Beth Amikdash. Certo, vedremo anche questo, sì, assolutamente. Cosa è successo? Che con l'esilio, i figli degli ebrei che sono andati in esilio, cioè quelli che sono nati in terre dove si parlava il babilonese, cioè l'aramaico, il greco, eccetera, eccetera, non parlavano più la lingua originale e forse anche se la capissero non riuscivano comunque a formulare le proprie tefilot in Lashon HaKodesh, nella lingua sacra. E quindi ognuno pregava in una maniera molto mischiata con altre lingue e non chiara e comunque si usciva fuori dai criteri originali che erano stati posti perché sia una tefilà fatta come richiesto. Allora Ezra e il suo Beit Din hanno visto questo, scrive sempre citando il Rambam, e hanno istituito il concetto delle 18 Berachot, cioè la Amidah come la conosciamo noi, ovvero cosa è che schema seguono le 18 Berachot. Prime tre benedizioni di lode, di parlare della grandezza di HaKadosh Baruch Hu, poi tutte le restanti in mezzo di chiedere le proprie esigenze e le tre finali di ringraziamento e di nuovo di lodare la grandezza di HaKadosh Baruch Hu. E queste tefilot di richieste, di esigenze, queste benedizioni qui, rientrano, coprono tutte le esigenze possibili di qualsiasi persona di Am Israel e quindi sono valide per tutti. E questo perché? Questo perché ci sia un unico rito che possa essere chiaro e conosciuto da tutti e che tutti potessero fare la tefilà secondo quanto è richiesto. Quindi anche chi non ha possibilità di parlare può fare una tefilà valida quanto chi può formulare la più bella tefilà. E hanno anche poi istituito in quel momento che il numero delle tefilot corrisponda appunto al numero delle korbanot, ok? E quindi quando c'è per esempio il giorno in cui c'è un korban aggiuntivo che si chiama korban musaf, che vuol dire letteralmente korban aggiuntivo, allora c'è una tefilat musaf, una tefilà corrispondente anche aggiuntiva come Rosh Chodesh, eccetera, qualsiasi giorno in cui ci sarebbe Musaf. Poi abbiamo detto che Arvit vedremo a che cosa corrisponde. La nostra Mishnah effettivamente, tra l'altro c'è stata una parentesi, il legame tra le tefilot e le offerte comunitarie che si facevano nel Beit HaMikdash, quindi il Korban Tamid, che sono le offerte comunitarie fatte a nome di Am Israel, collettive, era già esistente questo legame ai tempi del Beit HaMikdash, nel senso che quando si faceva il Korban quotidiano, mattutino e serale, c'era al tempo stesso contemporaneamente una tefilà che la gente faceva. Quando noi diciamo le tefilot prendono il posto delle korbanot, non che prima non c'erano le tefilot, è che adesso prendono anche il posto delle korbanot, perché non ci sono le korbanot, ma non che prima non c'erano tefilot. Questa è una cosa spesso che manca spesso questo punto qui. La gente spesso pensa che non c'erano le tefilot, c'erano solo i sacrifici, le korbanot. Al momento che è stato distrutto il Beit HaMikdash e non ci sono le korbanot, allora abbiamo fatto le tefilot. Non è così. Le tefilot c'erano sempre, solo che ora le tefilot non abbiamo perso, in altre parole, quello che si effettua attraverso le korbanot, perché lo si effettua attraverso le tefilot, cioè le tefilot prendono anche il posto Scusa, delle korbanot. Sì. non ho capito se prima della distruzione del Beit HaMikdash, però lo schema era lo stesso, poi istituito da Ezra, che ha dato, diciamo così, questo Allora, standard. stiamo parlando di due Batei Mikdash. Quando esisteva il primo Il Beit primo, HaMikdash, scusa. non c'era uno schema. No, questo volevo Quindi dire. lì eravamo dai tempi di Moshe Rabbeinu, appunto diceva Rambam, no? Dai tempi di Moshe Rabbeinu fino ai tempi di Ezra, vuol dire fino a dopo la distruzione del primo Beit HaMikdash e quasi e fino all'inizio della costruzione del secondo, era ognuno Sì. E faceva secondo le proprie possibilità. E quindi si facevano le korbanot, ma anche si facevano e le tefilot, tefillot ma le erano tefilot erano secondo le personali. proprie possibilità. Esatto. Ah, ok. Personali formulate Sì. dalla persona. Anzi, Nonostante ci fosse però un Beta Migdash, ci fosse, quindi noi diciamo, già un queste. rituale un po' più. Proprio perché c'era un Beit HaMikdash? Visto che Ah, siccome c'è il pensavo il Beit contrario, HaMikdash, proprio perché c'è un. no, pensa al contrario, siccome c'è il Beit HaMikdash e ciò che avviene nel Beit HaMikdash è molto regolato, lo stiamo leggendo nelle parashiyot di Sì, queste settimane, Vaikra, sì, sì. Tzav, Shemini, come abbiamo letto, ogni cosa, ogni dettaglio esatto. La tefilà dava spazio al cuore, tra virgolette, cioè lì tu formuli il tuo sentimento all'interno di quello che è tutto Invece il resto. pensavo che anche le tefilot fossero molto. Invece, al contrario, i maestri Ok. dicono, e lo vedremo, riferito a quell'epoca, non fare una tefilà fissa. Perché fare una Non tefilà cambiare. fissa sarebbe come prendere la via facile, no? Fai una tefilà formulata da te, nuova, in base a quello che è il tuo sentimento e la tua esigenza in quel momento. Questa sarebbe la tefilà ideale. Ovviamente noi possiamo applicare questo alla nostra situazione non cambiando le parole, ma cambiando l'intenzione, ovvero essendoci con l'intenzione del momento e non semplicemente recitando delle parole, che ovviamente non è una cosa facile, parleremo anche della Kavanah, della tefilà. Però il primo tema di questo capitolo nella Mishnah che adesso affronteremo sarà appunto gli orari delle tefilot. Ok? Quindi allora Quindi, questo. dando per scontato tutto ciò che abbiamo detto Sì. finora, che poi rivedremo nella Gemara quando si analizzerà la Mishnah parte con le istruzioni che riguardano gli orari. Faccio solo un'altra premessa. In questo capitolo, anche nelle prossime righe, vedremo molti dei concetti che abbiamo già visto nello studio di Halakha. Quando abbiamo studiato Shulchan Aruch, stiamo studiando le regole della Tefilah. Quindi noi vediamo già l'alacha sviluppata, tra virgolette. Qui magari vedremo una cosa e voi direte, ma lo sappiamo, l'abbiamo studiato nell'alacha. Sì, certo, ma questo, come dico sempre, è la budella dell'alacha, è quello che c'è dietro e vedremo un po' gli sviluppi, le varie opinioni, quelle che poi diventano alacha e quelle che rimangono solamente teoria. Ok? Una cosa sola, Sì. Rav, quindi l'istituzione delle 18 Berakot, poi vabbè saranno diventate 19, però è prima della costruzione del secondo Nel tempio, periodo della costruzione. nel periodo All'inizio del del secondo secondo. tempio. Sì. In Quindi ci sono arrivate così, che senso cioè così? erano così già come le facciamo adesso, quindi. Sì, quasi uguale. Stessa struttura, stesse Berachot, sì. Ovviamente abbiamo diversi riti, Sì, sì, sì, sì. perché ci Chiedevo, non è sono, stato zitto. perché ci sono, può darsi che già dall'inizio c'erano diverse sfumature. E comunque con il Però questo è lo tempo. standard, ecco. Sì, quello è lo No, quello che standard, non cambia sono perché le benedizioni, in poi con tutti i il riti le testo può Berachot. cambiare. Esatto. Esatto. Quindi Ma schematizzando. Sì, ma il concetto di ogni benedizione anche in base al è Minhag è sempre uguale, quello, capito? uguale, Vabbè, uguale. lo Alla dice lui. fine, Lo la dice lui. braca è sempre quella, alla fine, sono uguali per tutti. Quindi Alberto? schematizzando primo Beit HaMikdash, i riti e cioè il Corbanot, eccetera, e spontanee tefilot Non solo spontanee. primo Beit HaMikdash, da Moshe No, Rabbeinu da Moshe fino alla Rabbeinu fino a. distruzione del primo Beit HaMikdash. E il punto era spontaneo al di là dei riti specifici. Sì. Con l'inizio del secondo è introdotta la La formulazione. formulazione, e poi aggiungerei non solamente la formulazione delle tefilot, ma tutte le berachot, la birkat amazon, tutte le cose che si formulano in maniera formale, quasi tutte sono state formalizzate da questo corpo importante, Anshei Knesset HaGedolah, di cui Ezra era uno dei capi, faceva parte di questo corpo anche Mordechai, molti Chachamim e alcuni profeti, gli ultimi profeti Haggai, Zecharia e Malachi, erano parte di questo gruppo, che era un gruppo di 120 saggi e profeti. Quindi non era un semplice sinedrio, era qualcosa di più. Il Talmud uno con uno pensa 120. Hai visto? Invece su qualcosa sono andati d'accordo. Beh, comunque hanno fatto una cosa importante. Molto importante, hanno dato struttura all'ebraismo. Struttura proprio all'ebraismo. Probabilmente sì. Anche grazie a questo ancora. Assolutamente sì. Ok, vediamo la Mishnah. Siamo pronti per vedere la Mishnah? Allora abbiamo il testo della Gemara, Trattato di Berachot, pagina 26A, 26A, Kavav Amud Aleph, verso la parte bassa della pagina abbiamo l'inizio del capitolo 4, che è intitolato Tefilata Shachar, e cioè la Tefilah della mattina. E come la Mishnah sempre fa, dà tante cose per scontate, e va direttamente, parte, è la prima pagina che avete, e parte direttamente dalla istruzione. Al centro abbiamo la Gemara, a destra abbiamo Rashi, a sinistra abbiamo Tosfot. La Gemara dice così, la Mishnah, scusate. Tefilat HaShachar, riferimento specifico alla Amidah della mattina, secondo i maestri della Mishnah, la maggior parte dei maestri, ad Chatzot, e cioè i tempi della Tefilah della mattina sono dalla mattina. Cosa vuol dire dalla mattina? I commentatori dicono dall'alba, ma ancora meglio dal sorgere del sole, e vedremo poi la differenza tra l'alba e il sorgere del sole. L'ideale è dal sorgere del sole, ma è possibile anche dall'alba, che è un po' prima. Da lì inizia l'orario della Tefilah, e qui la Mishnah ci dice esplicitamente l'orario finale per fare la Amidah della mattina, che è ad Chatzot, fino alla metà della giornata. Quello che la Mishnah intende per la metà della giornata non è il mezzogiorno sull'orologio, è la fine della sesta ora delle 12 ore diurne. Se si dividessero il tempo di luce, cioè da alba a tramonto, se lo si divide questo blocco di tempo in 12 parti uguali, la fine della sesta sarebbe la metà, quello che noi chiamiamo alachicamente Chatzot, mezzogiorno. Quindi sono orari alachici. In inverno, che il blocco di tempo di luce è minore, queste 12 ore sono minori di 60 minuti ciascuno. In estate, al contrario, in cui l'orario diurno è più lungo, queste 12 ore sono più lunghe di 60 minuti, quindi non corrispondono, si chiamano Sha'ot Zemaniyot, gli orari alachici. Alla fine della sesta, quindi al mezzogiorno alachico, dicono i Chachamim, si conclude l'orario in cui c'è l'obbligo di recitare la Amidah di Shacharit entro questa ora. Ok? Allora, dicevo, questa è l'opinione dei Chachamim, e si basa su un versetto, o almeno si trova allusione in un versetto dei Salmi, dove c'è scritto Ere vavoker vezaorai masicha veme vaishmakoli, cioè da qui si deriva il concetto, non si deriva, si appoggia in maniera allusiva l'idea di una tefilà tre volte al giorno, Ere vavoker vezaoraim, sera, quindi la notte prima, arvit, vavoker, shacharit, vezaoraim e pomeriggio, mincha. E anche c'è scritto, riguardo all'inizio dell'orario di Tefilah, c'è scritto nel Teilim, sempre nel 72, Yira Uchaim Shamesh, con il sole ti vengono a vedere. Cioè, quindi allude che la Tefilà di Shacharit inizia come orario con il sorgere del sole. La fine però dell'orario, allora abbiamo visto di nuovo, i maestri hanno detto fino al Chatzot, ok? Però abbiamo un'opinione divergente. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, no, non è fino a Chatzot, ma è ad Arba Shaot, non fino alla fine della sesta ora, ma solamente fino alla fine della quarta ora. Cosa vuol dire la quarta ora? La quarta ora vuol dire dal sorgere del sole, la quarta ora sarebbe un terzo della giornata, 4, 8, 12, un terzo della giornata delle 12 ore alachiche, no? Lui dice no, solo fino al quarto, non fino alla sesta ora. Eh? No, lo Shema, un altro, lo Shema fino a 3 ore. Lui sta dicendo fino alla fine della quarta ora. Un'ora di differenza. Vabbè, meglio che sia no, perché era logico. Sì, era più logico, faccio lo Shema, entro la terza. Dillo a Rabbi Yuda. Ok, adesso vedremo. Vi anticipo che la Gemara ci dirà che la Halakha segue Rabbi Yuda. Non segue l'opinione di maggioranza in questo caso, segue Rabbi Yuda, che l'orario fine della tefilà di Shacharit è alla quarta ora. Nonostante ciò, alcune autorità alachiche dicono che, visto che esiste l'opinione dei Chachamim che si può arrivare fino alla metà della giornata, fino alla sesta ora, di conseguenza chi non è riuscito a fare la tefilà fino alla quarta ora può recuperare ancora Shacharit fino a mezzogiorno, cioè mezzogiorno alachico, ok? Ma solo se non si è fatto in tempo, non è una cosa che si può fare a posteriori, sì. Comunque, questo era solo per anticipare un attimino. Ora, la Gemara e la Mishnah dice, qual è l'orario di Mincha? Di nuovo, prima vediamo l'opinione dei Chachamim. Tefilata Mincha, per ciò che riguarda la Amidah del pomeriggio, che è chiamato Mincha, la Mishnah dice, ad ha'erev, fino a sera. Fino a sera vuol dire, è interpretato dai commentatori, la maggior parte, che vuol dire fino al tramonto del sole. Visto che l'orario di Tefilat Mincha, vedremo nella Gemara, corrisponde all'orario del Korban Tamid, del sacrificio quotidiano pomeridiano, e il Korban Tamid si faceva dal 9:30, dalla 9:30, degli orari alachici, che si chiama Mincha Ketana, l'orario piccolo, cioè l'orario che rimane poco tempo dalla Mincha fino al tramonto, l'orario ideale poi per la tefilà di Mincha, è quello che si chiama Mincha Ketana. Mentre, visto che la vigilia di Pesach si anticipava il Tamid, perché il Korban Pesach deve essere fatto dopo il Korban Tamid, a differenza di qualsiasi altro Korban del mondo. Deve essere fatto, però dobbiamo lasciare il tempo per poterlo fare, eccetera. Allora si anticipava il Korban Tamid quotidiano del pomeriggio alle 6:30, 3 ore prima. E allora questo perché già possiamo rientrare in un orario pomeridiano di Mincha, e allora questo si chiama Mincha Gedolah, il grande orario di Mincha, che lascia dalle 6:30 fino al tramonto. E anche noi a volte possiamo anticipare Mincha, l'orario di Mincha Gedolah, come in inverno è più facile arrivarci. E l'orario di Mincha Gedolah è dalle 6:30 in poi. 6:30 vuol dire da mezzogiorno e mezzo alachico. Ok? Mezz'ora dopo il mezzogiorno alachico sono le 6:30. Mentre invece l'orario di Mincha Ketana, l'orario più ideale di Mincha, che era l'orario normale del Tamid, è dalle 9:30. Vuol dire dalle 3:30 alachiche, ok? Invece di mezzogiorno e mezza alachiche. La Ketana. La Ketana è dalle dalla nona ora e mezza, esatto, di quella divisione che abbiamo detto, esatto, prima, fino al tramonto. Quindi dalle tre e mezza, diciamo, se fosse una, se iniziasse all'una, se a zero. Fino al tramonto. Sì. La Gedolà parte prima dalla sesta ora e mezza, esatto, sempre fino al tramonto. Gedolà e Ketana rispetto al tempo piccolo, sì, grande, fino al tramonto. Gedolà. Esatto, esatto. Anche qui Rabbi Yehuda dissente. Guardate il testo. Cosa dice Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda Omer ad Pelag HaMincha, fino al mezzo del periodo della Mincha. Che vuol dire? Secondo Rabbi Yehuda, noi dobbiamo guardare l'orario di inizio in quale si sarebbe iniziato a fare il Korban Tamid e l'orario d'altra parte del tramonto. A metà di questi due orari si chiama Pelag HaMincha. Questo è un orario che bisogna ricordare perché sarà importante per diverse cose nell'Alaha. Pelag. Pelag vuol dire in aramaico a metà. Dividi la Mincha in due. Quindi l'orario tra l'inizio orario di Mincha, cioè Mincha Gedolah, le sei ore e mezza. A metà strada fra sei e mezza e nove e mezza. A metà strada fra questi due. No, ho capito male. No, scusatemi, si inizia dalla nona ora e mezza, dall'orario di Mincha ideale, Mincha Ketana. Sì. Questo è l'inizio, sì, la fine è il tramonto, sì, in mezzo è Pelaga Mincha. Ah, in mezzo, okay. Vuol dire un'ora e un quarto prima del tramonto, perché rimane un'ora e mezza, no? Puoi mettere pausa un attimo? Ci sono due ore e mezza, la metà è un'ora e un quarto. No, ci sono due ore e mezza, dalla nona ora e mezza fino alla fine. No, ascolta. Eh no, perché stavo vedendo. Tra Mincha Ketana. Non guardare gli orari, perché gli orari sono orari olachici, non ti dicono esattamente. Da Mincha Ketana fino al tramonto, la metà tra questi due orari è Plaga Mincha. Tra Mincha Ketana e la Shekiah, cioè il tramonto. Un esempio logico, ma sì, il sole sorge alle 6, va bene, dobbiamo, sì, guardare le 9 ore e mezza alachiche, sì, praticamente sono 6 alle 3. Più 9, 15, alle 3 e mezza. 3 e mezza? Perfetto. Dalle 3 e mezza al tramonto mancano 2 ore e mezza, ok? Quindi a che ora è il tramonto? In questo esempio? No, no, in questo esempio non è alle 7. No, alle 8 e 10. No. No, però tu stai guardando l'orario però, effettivo. Però risulta tutto questo. Ok, vediamo. Perché c'è il tramonto è alle 8 e 10. Mincha Ketana è alle 6. Quindi sono 2 ore e 10. Quindi Plaga Mincha è alle 7 e 38. Perfetto. È questo. Stavo cercando... Stavo facendo la corrispondenza, sì, di quello che dicevi. È giusto. È questo, giusto. Assolutamente sì. Sì. E quella sarebbe quella più giusta. Mentre Mincha Gedolah, no, vediamo. Mentre Mincha Gedolah è all'1:54 perché sarebbe la sesta ora. La sesta ora e mezza. Mezza. Sì. Sesta ora e mezza. E quella è Mincha Gedolah. Leonardo. Mi mette pausa. No, non posso. Di cosa si tratta? No, si tratta che, come al solito, adesso stiamo parlando di cose che... Stiamo parlando di Alaha. Sì, ognuno parte con la sua testa. In realtà, bisogna che... Spiegare, secondo, sì, me. Sì, sì. Io penso, dimmi cosa vuoi cosa spiegare. Di me, però non sto zitto, non lo dico. Dillo. L'importanza, perché una tefilà va fatta entro una certa ora, perché dopo non posso più farla, scatta quell'altra. Questo, no, c'è, benissimo, un motivo dietro. Perché se tu parti da chi ha istituito tefilot, Avram ha fatto Shachrit, Leonardo, per questo abbiamo la Gemara, lo vedremo nella Gemara. Sì, però se tu, perdonami, se io devo sentire la terza ora, la quarta ora, non capisco perché c'è un limite di orario. Ok. Se io capisco perché c'è un limite di orario, allora è più chiaro per me capire. Certo. Quindi dobbiamo capire nell'arco della giornata perché ci sono queste 12 ore, cosa governa una certa ora piuttosto che un altro. Assolutamente sì. Se no diventa tutta, rimane per aria. Bisogna anche capire, condivido quello che dici, bisogna però anche capire che stiamo studiando un testo che è strutturato in una certa maniera. Sì. Vuol dire, la Mishnah non dice questo perché dà per scontato che tu lo sai. Ma noi non lo sappiamo. Ascolta. Però visto che non lo sappiamo, e già non è che da ieri che non lo sappiamo e non da oggi, ma già da tanti anni. Allora la Gemara già ha pensato ad integrare. La Gemara viene alla Mishnah e dice: scusa, perché dici questo? Su che cosa si basa? Quali sono le fonti? Quali sono le motivazioni? Anche quello che stai dicendo rispetto a Abraham fece Shacharit, Yitzhak fece Mincha, Yaakov fece Arvit. Sono tutte cose che vedremo nella Gemara come approfondimento per capire le motivazioni dietro. La struttura di come è fatta la Mishnah è così. Siamo partiti dalla fine, perciò. La Mishnah parte dalla fine. Questo l'abbiamo visto già quando abbiamo approfondito la struttura della Mishnah nelle varie introduzioni che abbiamo fatto, che la Mishnah appositamente e volutamente parte dalla fine, perché la Mishnah mette per iscritto ciò che in teoria dovrebbe rimanere orale, quindi si limita ad alcuni ad alcune affermazioni molto sintetiche nelle quali si nascondono approfondimenti, motivazioni e tutto quello che c'è dietro. Non siamo in grado da soli ad estrapolarli, quindi abbiamo la Gemara. In più alla Gemara abbiamo tanti commentatori che ci aiutano, che ci accompagnano, e in questa maniera tiriamo fuori. Quindi sì, in teoria si può iniziare dalla fine, no? O quello che noi chiamiamo l'inizio. Si potrebbe anche fare, la piccola introduzione che ho fatto all'inizio era per un po' dare una infarinata, no? Di cosa stiamo parlando, di non iniziare subito così. Ad Chatzot, Rabbi Yehuda Omer, ad Arbashot, di cosa stiamo parlando, dove stiamo andando, da dove stiamo venendo, e chi contro chi, non si sa. Una piccola infarinata ce la siamo fatta, ora man mano approfondiamo i vari significati della cosa. Già la Gemara, prima di questo, quando si parlava dello Shema, ha già spiegato che ci sono vari momenti nel periodo di 24 ore, già partendo dallo Shema della sera, fino a che ora, e poi quando scatta il concetto di mattina, vari momenti nella notte stessa, che corrispondono anche a ciò che avviene nei mondi spirituali, diverse, se vogliamo vederlo da un punto di vista cabalistico, c'è scritto che in ogni orario c'è una diversa combinazione del nome di Hashem. Il nome di Hashem, che le lettere si possono esprimere in diverse maniere ed essere combinate in diversi ordini, e seguendo diverse numerologie, eccetera, cambia in base all'orario. Allora, in base all'orario e in base a questi blocchi di orari cambiano anche quelle che sono le nostre funzioni da fare alachicamente in questi momenti, però ovviamente noi lo vediamo dal basso e piano piano saliamo verso l'alto. C'è chi vede i mondi superiori, non sono io, però c'è scritto che l'Alter Rebbe, quando era in prigione e l'hanno messo in un posto oscuro eccetera, che per non sapere la differenza tra giorno e notte, dice, come sapeva quando è Shacharit, quando è? Perché lui, secondo le combinazioni del nome di Hashem, lui vedeva questo e poteva sapere l'orario nel mondo materiale. Però la maggior parte di noi, non so te, però io non sono in grado. Allora partiamo passo per passo. Io credo sia importante, che può essere che noi abbiamo certe confusioni, no? Allora diciamo, dimmi prima questo, dimmi prima quello e poi capisco questo. È valido, però il studiare quello che noi stiamo facendo qui, qual è il Torah, Yeshiva, quello che lo vuoi chiamare, il studiare sul testo è anche per imparare come i Chachamim hanno trasmesso le cose. Quindi non è solamente per dire, ti faccio una domanda, dammi la risposta. Ok, quello è un metodo valido perché comunque vuoi capire sul momento. Se si studia così ci sarà un motivo. E questo è giusto. Ma quello che stiamo facendo qui, che vorremmo fare, quello che a me personalmente piacerebbe che ognuno di noi viene dopo un anno, due anni, tre anni di studiare in questa maniera e inizia a pensare in un modo che la Torah pensa, in un modo che è strutturato dal pensiero dei Chachamim. E poi si potrà anche apprezzare di più, perché è chiaro che quando si vedono le cose in una determinata maniera e magari nei testi è fatto in una direzione opposta o in un'altra maniera, è frustrante, perché dice, vabbè, potevi dirmi dall'origine che è così o che non è così. Però piano piano, man mano, si rientra nella mentalità e si capisce perché è stato detto così, perché è stato detto così. Cioè, fa parte dello studio anche il metodo. cercare in realtà, di... In realtà è un modo di... Non solo nella camera, qualunque materia uno studia nella vita, c'è la medicina, cosa fai? C'è un corpo umano che la cosa è finita, adesso vai indietro a capire come funziona. Certo, sì. In ogni regime di studio è così. Sì, dal finito. Uh-huh. Scusa, Sciarlo. Sì. C'è anche una motivazione molto più terrena legata alla pratica di cosa si facesse a livello proprio fisico. Motivazione di? Questo scandire il tempo entro cui c'era anche un quotidiano, lavori da fare, cosa o meno, quindi entro determinati... Certo. Cioè non è solamente per carità per chi riusciva a... Questo in realtà la Gemara ne parlava prima, quando si parlava dello Shema, le tre ore... Cioè, le... molto... Esatto. Cosa c'è scritto nello Shema? Beshoch becha uvekumecha. La Torah lo dice. Quando ti svegli e quando vai a dormire. Allora, se ne è parlato nel primo capitolo di Berachot. Cosa significa quando ti svegli e quando vai a dormire? Come si definiscono questi orari? Perché l'operaio si sveglia alle 4 e il nobile si sveglia alle 9. Allora. Questo dice... Quindi, ecco l'orario dello Shema, copre questo arco qui. Allora, certo, la Torah dà prima di tutto questo aspetto pratico, però... Noi dobbiamo applicare la tefilà a questo aspetto, perché la Torah ne parla riguardo lo Shema. Ecco perché dicevo prima, la Gemara ci farà capire come, dove esattamente e come rientra la tefilà, che non è esplicito nella Torah. Ecco perché all'introduzione dicevo, gli orari della tefilà non sono mina Torah, sono midrabanan. E quindi tutto questo studio dietro dovrà farci capire come ci si arriva. E poi anche i tempi del Korbanot davano dei paletti. Per articolare, assolutamente sì, articolare questo schema orario, assolutamente sì. Sì, le Korbanot ci aiutano a definire i tempi anche delle tefilot, soprattutto. Allora, la Mishnah cosa dice? Concludiamo la Mishnah. La Mishnah dice: qual è l'orario di Mincha? L'orario di Mincha è l'inizio, è scontato. L'inizio è, come abbiamo detto. Ci sono due possibilità, quello ideale è come il Korban Tamid, cioè Mincha Ketana, il più piccolo orario, cioè più tardo, che è dalla 9:30, e invece l'orario anticipato è dalla 6:30, che è l'orario anticipato del Korban Tamid quando è la vigilia di Pesach, quindi c'è questa possibilità. E quando finisce l'orario di Mincha? Il tramonto. Invece Rabbi Yehuda dice Pelag HaMincha, cioè la metà della Mincha, l'orario tra le due definizioni di sera. Come dicevo prima, le due definizioni di sera è, la prima definizione è quando il sole inizia a tramontare, lo si vede già verso ovest, ok? Che inizia già da mezz'ora dopo il mezzogiorno, dalla 6:30. Comincia a calare. Dalla 6:30. E la sera stessa è il tramonto. Il punto in mezzo è una via di mezzo tra queste. Come dicevo prima, il punto in mezzo tra queste due qual è? La 9:30, che è l'orario ideale per Mincha. Ora viene Rabbi Yehuda e dice che l'orario finale di Mincha è Pelaga Mincha, cioè il momento in mezzo tra l'orario ideale e il tramonto, quindi dalla 9:30 fino al tramonto, in mezzo è Pelaga Mincha, cioè 1:15 dopo l'inizio di quell'orario. Le 2:30 che mancano li dividiamo in due, e 1:15 è quello del Pelag Mincha, ok? Il punto in mezzo. Questa è l'opinione di Rabbi Yehuda. La Gemara spiegherà la motivazione e l'approfondimento. Non ho capito, scusa, dov'è la differenza? Tra? Allora, qual è l'orario in cui finisce l'orario di Mincha? I maestri dicono al tramonto, sì. E Rabbi Yehuda dice no, è anticipato a Plaga Mincha, l'orario finale. Plaga Mincha, cioè la metà del tempo che rimane fra la 9:30 e il tramonto. No, esatto. Invece quella alla fine. Per la fine. Sarebbe le 16:30. Dipende, sì, dipende in che periodo, è chiaro. Ok, la Mishnah poi parla di Arvit. Abbiamo parlato di Shacharit, abbiamo parlato di Mincha. Ora la Mishnah dice Tefilata Erev, Arvit, Erev, la Tefilah serale. L'ultima riga della Mishnah, la terza, la quarta riga, en la keva. Non cambia. Non ha un momento fisso, e cioè può essere recitata tutta la notte, teoricamente. Anche di notte, dopo che il sole cala. Deve essere dopo che il sole cala, ma la domanda è quale limite? Fino alla mattina, en la keva, non ha un momento che lo fissa. Questo sempre secondo i Chachamim, e i Chachamim continuano e dicono Veshel Musafim. Abbiamo parlato di Shacharit, Mincha, Arvit, ora Tefilah di Musaf. Qual è l'orario indicato per la Tefilah di Musaf? Musaf si dice la mattina, ma Kol Hayom non ha limite come Shacharit fino a mezzogiorno, oppure anticipato ancora di più, come abbiamo visto secondo Rabbi Yehuda, quarta ora, ma bensì tutto il giorno. Come diciamo l'altro giorno a Pesach. Non mi ricordo, però Musaf ha l'orario tutto il giorno. Rabbi Yehuda Omer, ma Rabbi Yehuda invece dissente da questo e dice no, c'è un limite anche a Musaf, anche se è più in là rispetto a Shacharit, ad Sheva Sha'ot, fino alle sette ore. Ok? Fino alle sette ore Musaf. Quindi, secondo Rabbi Yehuda, anche Musaf ha un limite nella giornata, ed il limite è fino alle sette ore. Fino alla settima ora. Fino alla fine della settima ora. Vuol dire un'ora dopo il mezzogiorno alachico. Musaf è dopo. Musaf, no? Musaf è prima di Milcha. Se guarda l'orario quell'altro lì. No, e di nuovo qui, solo un secondo, di nuovo qui abbiamo l'idea che se qualcuno non ha fatto Musaf entro la settima ora, visto che per i Chachamim si può fare tutto il giorno, allora può recuperare e fare Musaf anche fino a dopo la settima ora, sempre in orario diurno, ok? Però a priori non lo deve fare, certo, prima dell'orario notturno. Siccome qua c'è scritto tutto il giorno, no, tutto il giorno vuol dire entro l'orario diurno, giorno come orario diurno. Volevi dire qua? Volevo dire una cosa. Sì. In questi orari alachici che abbiamo, sì, c'è l'opzione che dà due letture di ogni orario, poi sì, uno può scegliere. Ok, questa è un'altra cosa. Ma attinenza, allora adesso, qual è la differenza? Allora, concludo solamente, allora qui abbiamo concluso la Mishnah, abbiamo visto quali sono gli orari indicati per la tefilah della mattina, i Chachamim allungano fino alla metà della giornata lachica, Rabbi Yehuda lo limita al terzo, il primo terzo, quindi alla fine della quarta ora, la Mincha come orario va fino al tramonto, ma secondo Rabbi Yehuda no, solo fino alla metà tra l'orario ideale per Mincha, Mincha Ketana, nona ora e mezza e il tramonto, e si chiama Pelaga Mincha, la metà della Mincha. E invece Arvit, abbiamo visto nella Mishnah, che non ha un limite negli orari notturni, mentre invece Musaf ha un limite. Comunque è limitato agli orari diurni, ma Rabbi Yehuda lo limita in maniera ancora più chiara e dice entro la settima ora, cioè un'ora dopo il mezzogiorno alachico. Con questo la Mishnah conclude. La Gemara, che vedremo la prossima volta, entra nel discorso più di analisi di come si arriva a questo orario, facendo riferimento ad altri testi di Tanaim, di maestri della Mishnah, che parlano di questi orari per arrivare a delle conclusioni più chiare.